Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buonanotte a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Lo sapete, inseguiamo l'attualità, ma poi qualche volta ci capita anche di affrontare temi che per la verità sono ricorrenti per il nostro programma, direi proprio stagionali. In questo periodo ogni anno ci appunto capita di affrontare il tema del ritorno sui banchi di scuola e soprattutto del costo che devono affrontare per questa operazione le famiglie nel nostro paese. Dalla cancelleria all'abbigliamento, dalla mensa ai trasporti, fino ad arrivare alla voce di spesa più importante e in molti casi preoccupante, i libri. Sono tante le spese che una famiglia deve sostenere quando si avvicina per i più giovani il momento di tornare a scuola. Gli italiani si preparano a spendere diverse centinaia di euro per ciascun studente. Tutte le associazioni dei consumatori, ma non solo, hanno fatto la gara in questo periodo a pubblicare la propria stima di spesa, puntualissime, come in questo periodo, appunto, come capita ogni anno in questo periodo, tuonano proprio le associazioni dei consumatori su questo problema. Salva Danaio oggi vuole fare il punto sui prezzi, raccogliere i consigli per risparmiare, approfondire con particolare attenzione le normative sui libri di testo, tetti di spesa che devono rispettare le scuole, strumenti digitali, possibilità di acquisto nel mercato dell'usato. Naturalmente, come sempre, vogliamo conoscere anche la situazione della vostra famiglia e rispondere ai vostri dubbi. Tra l'altro, avevamo anche immaginato che fosse un po' tardi per fare questo programma, perché sicuramente il corredo scolastico è ormai completo all'interno delle famiglie. In realtà ci risulta che non è così, perché per esempio nei grandi centri commerciali, nei luoghi della distribuzione appunto organizzata, gli sconti iniziano proprio in questo periodo su questo materiale, per cui magari qualcuno avrà atteso per completare appunto, per il completamento del corredo scolastico, atteso proprio appunto che partisse la stagione anche degli sconti su questi articoli, stagione degli sconti che parte generalmente proprio i primi di settembre. Allora, per i vostri interventi 800 24 00 24 è il numero verde che vi consente di intervenire in diretta. In alternativa scriveteci, se volete, al 349-238-6666. Scriveteci delle mail all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Scriveteci su Facebook, già qualche ascoltatore ieri l'ha fatto. Il nostro profilo è salvadanaio-radio24. Siamo anche su Twitter, @salvadanaio24. Quanto prevedete di spendere per il rientro a scuola dei vostri figli? Quali costi vi preoccupano di più? Raccontatecelo. Noi stamattina ne parleremo con Daniele Grassucci, responsabile delle relazioni esterne di scuola.net, scuola con la K, lo dobbiamo sempre ricordare. Daniele, bentornato, buongiorno. Grazie, ben trovati. Grazie, buona ripresa anche a te, buona ripartenza, così come l'auguro anche a Davide Guarneri, un grande aiuto per la nostra trasmissione quando parliamo di tematiche legate alla gestione e al costo dei figli. Davide Guarneri, presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus. Buongiorno presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a Jessica Delise, content manager di T&O Italia. Buongiorno Delise, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ci faremo raccontare, secondo questo osservatorio, qual è il costo medio del ritorno a scuola appunto per bambino, secondo un monitoraggio che questa azienda, questa società, che poi vi spiegheremo che cosa fa, appunto ha fatto, e quindi tanti dati interessanti. Più tardi ci collegheremo anche con Edoardo Scioscia, fondatore della catena Libraccio, responsabile anche delle attività di Libraccio.it e amministratore appunto di questo marchio molto noto, presente in molte città dove è possibile acquistare appunto libri usati e adesso anche attraverso la modalità online. Prima di tutto questo, però, come sapete, abbiamo un appuntamento fisso che è quello con i mercati finanziari. Mercati finanziari di nuovo deboli. La partenza sembrava, ma non più di tanto, più incoraggiante. Poi ancora di nuovo tutti in rosso i listini del vecchio continente. Da copione, appunto, le preoccupazioni da ieri sono tutte concentrate intorno all'escalation della situazione siriana, che sta riportando nettamente verso l'alto le quotazioni del greggio e a breve noteremo subito anche gli effetti sui carburanti, che già qualcuno lamenta, e poi naturalmente mercati azionari in discesa e mercati obbligazionari un po' in tensione. Tutto sommato stamattina lo spread era a 263 punti base, in avvio non ha contagiato più di tanto le intenzioni di mercato sui titoli di Stato italiani, perché il Tesoro ha piazzato senza particolari problemi 8 miliardi e mezzo di euro di bot a 6 mesi. Il tasso è risultato in leggero rialzo rispetto all'asta di luglio, allo 0,88% dallo 0,79% appunto di un mese fa. Domani c'è un test più importante perché il tesoro va in asta con BTP a 5 e 10 anni e quello sarà davvero appunto un esame molto più importante di quello di questa mattina e di quello che c'è stato ieri. Milano adesso resisteva in positivo e invece perde colpi, meno 0,09% sul FTSE MIB, meno 0,37% a Parigi, Francoforte più pesante stamattina lascia sul campo un punto, Londra meno 0,6%. I titoli che resistono a Milano: Banco Popolare più 3, Eni più 2, UbiBanca più 1,80, Finmeccanica più 1,68, Enel Green Power più 0,70, vendite invece su Ansaldo meno 3,65, Azimut meno 3, Pirelli meno 2,41, A2A meno 1,85%. Per la borsa è tutto. Il tema di oggi: ritorno a scuola per tutti i nostri ragazzi. Quanto ci costa questa operazione? Una fionda. Beh, ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. Ma... E i libri, indo ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho! E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io! Ce lo sei te? Vabbè, via di là, via! Volo! Oggi Marco Lombardo si è davvero sbizzarrito, sia per quello che riguarda la scelta del brano cinematografico che apre il nostro programma, sia per quello che riguarda la scelta del brano musicale che apre il nostro programma. Da Pierino di Alvaro Vitali a Chuck Berry, veramente due mondi molto distanti, ma che ci introducono appunto all'argomento che vogliamo affrontare questa mattina: come risparmiare per il ritorno a scuola. Facciamo subito qualche calcolo. Jessica Delise, content manager di TMDeo Italia, per la verità questa società ha sede a Barcellona, però vi occupate anche delle spese delle famiglie italiane. Cosa avete scoperto monitorando l'impegno finanziario delle famiglie per riportare i bambini a scuola? Allora, abbiamo effettuato un sondaggio su oltre circa 1200 consumatori, perché Buono Tendeo si occupa fondamentalmente di raccogliere tutti i cataloghi e i volantini della grande media distribuzione, in modo tale che gli utenti così possano comparare i prezzi dei diversi prodotti. E in Italia siamo online dal 2012 più o meno, però siamo presenti anche in Brasile, in Messico, in Spagna e in Inghilterra, e dallo scorso mese anche in Colombia. Quindi abbiamo, diciamo, una statistica a livello quasi mondiale, tra virgolette. Però appunto, per ritornare al discorso dell'Italia, quello che abbiamo notato facendo appunto attraverso la vostra pagina web questa inchiesta, abbiamo scoperto che più del 63% delle famiglie prevede di spendere più di 250 euro nel ritorno a scuola, e fondamentalmente questa spesa è ripartita tra i libri di testo, che sono più o meno il 54% della spesa, la cancelleria il 18%, l'abbigliamento anche il 18% e l'elettronica il 12%. E fondamentalmente per risparmiare, quello che fanno le famiglie è comparare i prezzi online. Il 60% delle famiglie intervistate confronta appunto i prezzi e le offerte dei volantini digitali, mentre il 30% riutilizzerà il materiale scolastico, i libri di testo e i vestiti degli anni precedenti, e mentre l'8% acquisterà di seconda mano. Anche perché adesso la seconda mano, mi viene da dire, ha un nome anche più nobile, che è il vintage, per cui lo, come dire, utilizziamo anche per questo settore. Chiusa parentesi, Jessica. Esatto. Sì. No, sicuramente è un trend che sta funzionando molto, questo della seconda mano. Anche perché la seconda mano in questo settore molto spesso è primissima mano, perché i bambini, insomma, sono abbastanza abituati a magari utilizzare poco penne, cancelline, colori e non so che cos'altro, appunto, e quindi generalmente si può riutilizzare tutto abbastanza bene. Quello sì, anche soprattutto nei libri, però la cosa particolare è che in Italia il dato importante era che la marca era qualcosa di veramente importante negli acquisti per il ritorno a scuola. Il 43% degli intervistati afferma che la marca sarà determinante nell'acquisto, quindi vuol dire che magari molte famiglie risparmiano sulla seconda mano o riciclando il materiale degli anni precedenti, però sì, sempre con un occhio alla marca. E questo era particolare anche perché in Spagna era il 30% meno. In Spagna, per esempio, tra il 13 e il 20% delle famiglie guardava la marca per i propri acquisti. Certo. Vedo anche dalla sintesi del vostro sondaggio, Jessica Delise, che le famiglie da qualche tempo a questa parte fanno molti meno acquisti di impulso, ma molto più ragionati, e si informano sempre di più prima di effettuare gli acquisti anche in questo campo. Esattamente, sì, infatti anche dalla nostra pagina web possiamo appunto trovare i prodotti che sono più ricercati, che sono per esempio zaini, astucci, buche, diario scolastico per quanto concerne il ritorno a scuola, perché la gente fondamentalmente cerca online i prodotti, così può trovare il prezzo più economico e poi eventualmente dirigersi direttamente al punto vendita. Però in questo momento dell'anno abbiamo un'impiccata nella ricerca di questi prodotti. E tra l'altro appunto è il momento dell'anno più costoso per le famiglie dopo Natale, e questo noi lo possiamo vedere nell'aumento delle visite che abbiamo nella nostra pagina web, che per esempio per Natale aumentano quasi del 50% e per il ritorno a scuola siamo all'incirca intorno a questa cifra. Benissimo Jessica, allora magari coglieremo l'occasione per risentirci a Natale. Grazie intanto per questi dati che ci ha dato, appunto per poter iniziare a conversare anche con i nostri altri ospiti. Monitoraggi effettuati in questo campo ce ne sono tanti e sono soprattutto in prima linea anche le associazioni dei consumatori. Davide Guarneri, possiamo dare appunto le cifre di ogni tipo, giocarcele anche all'otto se vogliamo. Di fatto per ogni anno ci ritroviamo puntuali a parlare di questo problema, nonostante anche da questi microfoni tante campagne di sensibilizzazione su questi argomenti, cercare di spendere appunto razionalmente, ne facciamo tante, però appunto il segno più c'è sempre sulle spese che devono sostenere le famiglie in questo frangente. La situazione che avete monitorato voi quest'anno invece qual è? Certo, l'impegno educativo non deve mai fermarsi, questa sarebbe una prima riflessione. Di certo le spese che le famiglie affrontano in questo momento sono legate ad una serie di voci. I libri di testo, ricordiamo che ci sono anche molte nuove edizioni, purtroppo ci sono nuove edizioni con variazioni minime, ma le famiglie sono costrette comunque ad acquistare libri nuovi. Ci stiamo attrezzando un po' in tutta Italia con esperienze come il comodato d'uso e il riuso in genere dei libri. Ma le spese sono anche, appunto, come diceva il sondaggio detto prima, il digitale che inizia a chiedere parecchio alle famiglie. Non dimenticherei i trasporti, che per la scuola secondaria soprattutto sono un peso rilevante all'interno della famiglia, e la mensa. Ecco, queste almeno sono le voci principali. Guardi, non mi anticipi il tema della mensa perché lo voglio affrontare nella seconda parte del programma, perché nel Milanese si è verificata una situazione molto spiacevole, della quale per l'altro abbiamo parlato anche tante volte, perché tante situazioni si sono manifestate in tanti paesi d'Italia, certo, dove appunto molte famiglie sono costrette, non riescono addirittura a pagare la retta della scuola per quello che riguarda appunto il contributo per la mensa, e queste famiglie molto spesso addirittura hanno avuto come ripercussione obbligata da parte di chi gestisce queste strutture quella di non poter più permettere al proprio figlio appunto di usufruire di questi servizi. Nel Milanese addirittura stanno partendo migliaia, e non dico decine, ma 11.000 cartelle esattoriali nei confronti delle famiglie appunto morose che negli ultimi anni non hanno appunto dato questo contributo. Poi ne parliamo, intanto voleva dire già qualcosa Guarneri su questo. No, ho qui sul tavolo proprio un grido di dolore, devo dire, di un assessore molto sensibile, il quale non ha più fondi per sostenere le famiglie nel pagamento delle mense o nelle rette degli asili nido. C'è anche questo problema, certo. Quindi complessivamente il sistema in questo momento non sta esatto, non sta se reggendo. Partono queste cartelle esattoriali non è perché magari l'assessore di turno vuole fare un dispetto alle famiglie interessate, ma perché se non riesce poi a ridare appunto lo stesso servizio nei mesi prossimi, nei prossimi anni non riescono. Allora ne parleremo tra qualche istante, poi vi racconteremo anche un po' meglio questa vicenda. Andrei però ai libri di testo. Daniele Grassucci, andiamo a te. Possiamo intanto sentire già un'ascoltatrice invece per capire cosa lamentano gli amici che ci seguono da casa, poi Daniele vengo da te. Rita da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Allora, io sono mamma di due bambini, quindi so che cosa vuol dire mandare a scuola i figli. Anni, Rita? Anni, uno 8 e l'altro 12, quindi stiamo parlando di terza elementare e medie. Quello che sto adottando da qualche anno, e ho visto un grandissimo risparmio, visto che ormai i negozi ci sono in tutta Italia, quindi anche nei piccoli centri, di comprare giornalmente quello che serve, cioè perché devo andare e fare la super scorta all'inizio dell'anno, certo, che comunque il budget, un quaderno impiega un bambino in media a consumarlo 20 giorni. Un bambino di elementare. Allora, perché io devo comprare 20 quaderni quando il giorno dopo, mentre porto mio figlio a scuola, ho il negozio vicino a scuola, il supermercato vicino a scuola e posso acquistare il quaderno quello che, se, che serve. Quindi è inutile anticipare metà stipendio, metà non so, nonno la pensione, metà per ciò che viene utilizzato quindi nei sei mesi successivi. Qual è il risparmio? Il risparmio sta nel comprare il minimo indispensabile per il primo mese e poi successivamente c'è il nuovo stipendio, la nuova pensione e quindi si rifà un punto della situazione, quello che serve. Cioè non viviamo su un cucuzzolo di una montagna. Dice non ci sono negozi, esatto, ha ragione Rita, ha toccato un altro punto molto interessante. Tra l'altro le devo dire che il suo punto di vista, lei mi pare abbia citato un piccolo negozietto vicino casa sua, sì. È quello che hanno proprio come dire diramato questo messaggio, l'associazione dei cartolai d'Italia, che dicono sì, va bene, fatevi pure la scorta al centro commerciale, portate a casa tutto quello che volete, però una volta comprato tutto quello che vi serve lì, vi mancherà nel corso dell'anno magari il rapporto diretto con il vostro negoziante di fiducia che vi può seguire, magari conoscere anche gradualmente la vita scolastica dei vostri figli e seguirvi in tante altre cose. Vabbè, comunque ognuno faccia quello che vuole, quello che è meglio per la sua famiglia. Di opportunità ne abbiamo tante, per fortuna l'importante è tenere sotto controllo queste voci di spesa, perché in realtà il controllo si rischia di perderlo molto facilmente. I libri di testo, Daniele Grassucci, nota dolentissima e molto importante, perché qua, esattamente come dicevamo all'inizio, visto che questo è il tema ricorrente ogni anno, ricorrentemente ogni anno affrontiamo il tema dei tetti di spesa. Le scuole devono impegnarsi a non far spendere più di tanto alle famiglie, eppure puntualmente questi tetti di spesa vengono superati, sfondati e nessuno, come dire, sanziona le scuole che poi si rendono protagoniste di questa malabitudine. Giusto, Daniele? Qual è la situazione quest'anno? In realtà quest'anno il Ministero ha cercato di dare un segnale almeno insomma, a livello centrale, perché non ha ritoccato all'insù i tetti di spesa, perché da quando sono stati introdotti col Ministro Feroni, quindi anno 2008, questi tetti di anno in anno subivano appunto un ritocco verso l'alto per adeguarsi all'inflazione. Quest'anno per la prima volta non è avvenuto ed è stata proprio una decisione specifica del Ministro di non emanare un nuovo decreto, quindi facendo rimanere vigente quello dell'anno precedente. Tuttavia, come ricordavi te, il problema non è tanto la legge, perché la legge c'è da qualche anno proprio per cercare di aiutare le famiglie a spendere meno, a mettere un tetto alla spesa complessiva dei libri adottati dai singoli consigli di classe. Il problema però è il controllo, e proprio su questo abbiamo ieri intervistato il direttore generale Palumbo, il quale ci ha confermato che c'è un controllo da parte del Ministero delegato agli uffici scolastici regionali, e le scuole che superano del 10% questo tetto, che è un po' una sorta di franchigia, in teoria vengono segnalate sia al Ministero sia all'ufficio scolastico regionale. Il problema però sta nelle sanzioni, cioè non esistono delle sanzioni precise, cioè non c'è un meccanismo automatico per cui superato il tetto c'è una sanzione che scatta, è tutto un po' legato alla valutazione degli uffici scolastici regionali, e eventuali sanzioni potrebbero essere previste magari a carico del dirigente scolastico, però rientra tutto in un'ottica di discrezionalità, possibilità, esatto. E quindi questo rende un po' aleatoria l'applicazione della norma, che in teoria è corretta, quindi da un certo punto di vista il Ministero cerca a livello centrale di porre un freno e di dare delle linee guida che dovrebbero essere rispettate, però poi non c'è un deterrente vero che spaventa nella realizzazione di questa norma, esatto. Senza contare che c'è poi il malcostume dei cosiddetti libri consigliati, che vengono aggiunti alla lista e non fanno parte del computo della spesa totale, però molto spesso in realtà sono un escamotage per eludere la norma, perché se poi gli insegnanti li utilizzano con frequenza oppure comunque sono richiesti, non sono consigliati, sono obbligatori. Quindi come sempre in Italia bisognerebbe cercare un po' di essere un po' più aggressivi nel rispetto nel controllare il rispetto delle norme, perché ci sono delle leggi molto belle ma poi sì, che lasciano delle maglie aperte per poter permettere appunto che non si rispettino. Davide Guarneri, presidente dell'AGE, dell'Associazione Genitori, qual è la vostra posizione su questo tema? Intanto Daniele Grassucci ha già detto molto, anch'io sottolineo il rispetto assoluto dei tetti di spesa, è compito anche nostro come genitori nei consigli di istituto tutelare questo rispetto. Non ci sono sanzioni e sarebbe opportuno che fossero a carico del dirigente scolastico, che comunque ha un contratto con l'ufficio scolastico regionale e quindi a qualcuno dovrà rispondere. Segnaliamo anche noi questo malcostume dei libri consigliati. Si apre anche un altro tema del quale abbiamo discusso anche con il Ministro esattamente il primo agosto, che è il futuro del digitale. il rischio è che l'innovazione nella scuola sia a carico delle famiglie, perché comunque l'acquisto di tablet eccetera sarà a carico delle famiglie. Peraltro introdurre il digitale significa anche un'opera ingente di formazione degli insegnanti che oggi esatto. non sono ancora in grado di gestire tutto questo modo nuovo di fare didattica. Cioè, il digitale non è un cartaceo in PDF per capirci, ecco, non basta qualche copia e incolla. Tra l'altro, guardi, su questa posizione, poi avrà modo di sentirlo, concorda anche Edoardo Scioscia dell'Ibracio, che è molto ben consapevole appunto di questo problema, di questo tema, appunto ha delle idee molto precise, poi avrà modo di confrontarsi con voi. Intanto volevo anche leggere appunto a voi tutti i messaggi che ci stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori. Su Twitter Andrea ci scrive: fra libri, materiale didattico e abbonamento ai mezzi, voce che al momento abbiamo lasciato fuori, almeno 1.000 euro per una terza liceo artistico, quindi figlio anche abbastanza grande, ma non è che perché già fa il terzo comunque i costi si riducono. 1.000 euro sono tanti e probabilmente questo figlio ha già tutto il corredo in termini di libri pronto. Ho tre figli, quest'anno ho già speso 735 euro di libri, 1.286, adesso io non so, Daniele, se sono delle cifre corrette, di abbonamenti tra Corriere. È quello che più mi fa arrabbiare, anche se invece di arrabbiare Daniele usa un altro termine, che non posso detrarre nemmeno un euro. Guarneri, quante volte ce l'ha sollevato? Questa è una nostra battaglia, speriamo qualche politico ascolti. Si detrae tutto in Italia. Noi chiediamo la detrazione dei libri di testo e dei trasporti pubblici almeno fino all'età dell'obbligo, fino ai 16 anni. Ecco. Allora, perché da noi non si usano i libri digitali? Digitale che cosa si intende? Questo tema lo affrontiamo tra qualche minuto dopo la nostra prima pausa, per cercare di capire anche se questa rivoluzione digitale nei libri appunto da utilizzare nelle scuole possa portare intanto che tipo di vantaggi economici e poi anche quale altro tipo di vantaggi, perché anche quello è importante. Insomma, c'è chi è assolutamente affezionato al testo cartaceo e però insomma dobbiamo fare i conti anche con tutto, perché mentre Pierino metteva i mattoni dentro il suo zaino, davvero qualche volta portare a scuola tutti questi libri per i nostri bambini, altro che mattoni, sono dei pesi insostenibili che di cui lamentiamo appunto, ci lamentiamo spesso. Salva Danaio. La scuola costa ogni anno di più. In particolare, ad appesantire gli zaini e alleggerire i portafogli di mamma e papà, si sa, sono i libri di testo. E sono in molti lungo lo stivale a cercare di correre ai ripari. Da alcuni anni l'iniziativa Book in Progress, nata in Unitis di Brindisi e diffusa in 70 scuole di tutto il paese, delega ai docenti la stesura dei testi e la relativa distribuzione in formato digitale. Le spese pare si riducano ad un decimo rispetto alla media e la figura del docente ne esce molto valorizzata. Il Comune di Venezia propone kit scuola, attenti al logo, articoli scolastici scontati a due passi da casa. Iniziativa che, con il supporto della grande e piccola distribuzione del territorio, punta al contenimento dei prezzi degli articoli scolastici. L'Unione degli Studenti di Bari organizza un mercatino dell'usato. È la nostra risposta concreta, dicono, alle speculazioni delle lobby editoriali. A Bari, sottolineano inoltre, è stato approvato il comodato d'uso gratuito dei libri di testo, attivo da quest'anno scolastico in via sperimentale in tutte le scuole della città. I libri, infine, si possono acquistare anche nei supermercati, che anche in questo caso riescono a proporre offerte più vantaggiose dei piccoli punti vendita. Quest'anno poi entra in campo perfino Amazon. Il colosso del commercio elettronico propone sconti del 15%. Il presidente dell'Associazione Librai Italiani, Alberto Galla, ha sottolineato dal canto suo che anche se la grande distribuzione è molto aggressiva sui libri di testo e fa offerte che rasentano il sottocosto, i librai fanno questo mestiere tutto l'anno. Spenderete qualcosa in più, dice alle famiglie, ma avrete una persona che vi segue e che vi potrà seguire in futuro. Meglio risparmiare per i propri figli in altri campi meno fondamentali, come l'abbigliamento, rispetto ad un bene come la cultura. È vero, anche questo è vero, ma insomma i figli crescono, una maglietta che compri oggi l'anno prossimo non va più bene, lo dico tante volte, io non sono mamma, sono una zia fantastica e vedo che i miei nipoti praticamente non riesco a tenerli sotto controllo, crescono a vista d'occhio, per cui non è poi neanche così facile risparmiare da quel punto di vista. Allora, il tema dei libri, il tema dell'avvento del digitale, a che punto siamo? Siamo ad un punto ancora abbastanza lontano rispetto appunto a tutti i progetti che erano stati fatti dai vari ministri che si sono susseguiti negli ultimi anni. Vi faccio sentire un paio di insegnanti e poi riprendiamo il nostro dialogo con i nostri ospiti, a cui peraltro a questo dialogo si è aggiunto anche Edoardo Scioscia, amministratore del Libraccio, sia nella versione diciamo dei negozi tradizionali Scioscia, sia nella versione appunto dell'online che avete attivato da qualche tempo. Buongiorno, sì. Intanto benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, sentiamo un paio di insegnanti e poi vediamo un po' che cosa possiamo fare per rendere più leggero dal punto di vista dei libri di testo fisici lo zaino dei nostri ragazzi. Marcello da Fermo, intanto, buongiorno. Buongiorno, io riporto chiaramente l'esperienza personale e quella sui tetti di spesa che riguarda il fatto che noi abbiamo un blocco che ci viene imposto poi dalla Presidenza per 6 anni di non cambiare il libro di testo, quindi di mantenere quel libro per 6 anni consecutivi. Succede che con il passare degli anni al secondo, terzo, quarto, quinto anno il libro di testo lievita di costo, perché ogni anno aumenta anche leggermente, ma aumenta sempre il costo. Quindi quando è ora di ricomprarlo, dice lei, è triplicato. Quando arriviamo al quinto, al sesto anno, il costo non è il costo di partenza che noi abbiamo preventivato e che stava nel computo totale sotto il tetto di spesa, ma tutti i vari testi nei 5-6 anni successivi, aumentando di costo, superiamo questo tetto che ci viene imposto, che all'inizio comunque noi cerchiamo di mantenere. Certo. Noi saremo anche disposti a cambiare il libro di testo, ma questo non ci è permesso. Marcello, la ringrazio, metto insieme alla sua testimonianza anche quella di Andrea da Padova, perché il punto che tocca il nostro ascoltatore è molto interessante. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io faccio l'insegnante educazione fisica. Negli anni 90 ero insegnante educazione fisica in una scuola media, e in un collegio docenti fu proposto, per diminuire l'onere del costo dei libri, di fare delle dispense soprattutto al posto del testi, soprattutto nelle materie cosiddette tra virgolette minori, quindi educazione fisica, religione, educazione artistica. Ecco, questa proposta venne poi completamente accantonata perché il provveditorato disse che questo non era possibile in termini di legge. Le avrebbe fatte lei volentieri, Andrea, queste dispense per i suoi studenti? Sì, ma tra l'altro adesso col digitale i ragazzi potrebbero fare proprio delle ricerche con internet, quindi verrebbe sicuramente superato un grosso tetto di spesa che scenderebbe moltissimo. Probabilmente, io adesso non dico senza, tra l'altro non li abbiamo questa mattina, quindi sarebbe anche giusto sentire il loro punto di vista, ma è chiaro che gli editori e tutto il mondo che ruota intorno alla costruzione, elaborazione e pubblicazione di questi libri chiaramente avrà un'idea abbastanza diversa da quella che stiamo rappresentando noi questa mattina. Detto questo, vado a Daniele Grassucci per farci spiegare il tema del blocco dell'adozione di libri di testo nuovi per 6 anni, questa norma della quale appunto ha parlato l'ascoltatore di Fermo, Marcello, e poi il tema anche del book in progress, perché Andrea dice: noi avevamo proposto di fare delle dispense per i nostri studenti almeno per certe materie, non ce l'hanno permesso. In realtà in molte scuole ci sono molti insegnanti che appunto di loro pugno scrivono queste dispense e le praticamente aggiornano costantemente anno dopo anno. In qualche scuola in realtà questo esperimento è riuscito e va avanti con grande soddisfazione di tutti. Allora, per punti, allora sul blocco dell'adozione, è che quella era stata una misura in qualche modo che nello spirito voleva cercare di favorire in qualche modo da una parte il non proliferare delle finte nuove edizioni, perché l'idea era blocchiamo, cioè i libri che vengono adottati devono essere non solo congelati in termini di adozione, ma non devono anche essere rinnovati per questo periodo di tempo, quindi era un doppio blocco sia sull'adozione sia sull'aggiornamento del libro, che doveva essere fatto attraverso delle aggiunte, quindi in qualcosa che poteva essere comprato successivamente. Tuttavia, ecco, la cosa importante invece per quanto riguarda i libri digitali, che c'è questa iniziativa di Book in Progress che sta dimostrando che risparmiare sui libri si può utilizzando proprio la buona volontà di tanti insegnanti, come appunto l'ascoltatore che ha appena parlato. con Book in Progress si riescono addirittura a far pagare i libri sia in forma digitale che in forma cartacea a 5 euro, quindi pensate, ecco, magari 10-12 libri adottati, tutti con, nell'universo Book in Progress, vuol dire una spesa di 50-60 euro, con i ragazzi che hanno sia il libro cartaceo, sia sul loro iPad la copia digitale, ecco perché bisogna sfatare un mito, con l'ebook non si risparmia, perché realizzare un ebook degno di questo nome, cioè sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, quindi video, contenuti multimediali, Va a finire che costa di più, Sì, va a finire che costa di più, poi ricordiamo che l'IVA su un prodotto cartaceo è del 4%, l'IVA su un prodotto digitale è del 21%, infatti noi lo scorso anno, quando doveva partire per l'ennesima volta, ecco, la rivoluzione digitale, e quindi i libri dovevano essere tutti adottati o in forma digitale o in forma mista, abbiamo visto che il risparmio di un ebook era mediamente del 15%, e a questo punto mi sembra di dire sia già stato fatto un miracolo, perché è vero che non c'è il costo di distribuzione e di stampa, ma ci sono tutta una serie di costi che sono nuovi, nascenti, perché gli editori tradizionali devono riconvertirsi e quindi spendono molto di più per realizzare questi prodotti. Volevo sentire i genitori cosa pensano del tema del Book in Progress, insomma questa collaborazione intanto molto attiva da parte degli insegnanti, che sono sempre molto sensibili a questi temi. Guarneri, potrebbe essere una soluzione per alleggerire un po' il peso del portafoglio? Sicuramente uno degli strumenti didattici molto interessanti, appunto perché è una comunità di pratica che apprende insieme, e quindi dal punto di vista didattico è interessante. Dal punto di vista della soluzione dei problemi delle famiglie sicuramente può contribuire, così come possono contribuire i libri di testo fatti a fascicoli, quindi acquistati un po' per volta, anche perché spesso noi come genitori testimoniamo che molti libri non sono neanche utilizzati completamente, restano intonsi a fine anno. Può contribuire per esempio l'acquisto collettivo, ci sono scuole che fanno un bando e acquistano per tutte le famiglie i libri, poi quindi con sconti significativi. Fermo lì che le faccio sentire Giuseppe da Roma allora su questo punto. Giuseppe, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ho appena comprato i libri di testo per mio figlio. Media. Quanto ha lasciato sul banco del negoziante? Delle... 200 euro. È così, bene, abbiamo chiuso bene agosto. E l'unica soluzione a questo, che è un balzello ai danni delle famiglie italiane, è quello del comodato gratuito, che tra l'altro vorrei far notare la norma negli altri paesi europei. Dopodiché, se il libro viene rovinato oppure il genitore decide di tenere il libro, lo paga alla scuola. Ci sono delle scuole che lo fanno, È un balzello ai danni delle famiglie italiane, e in questo momento mi pare che sia proprio il caso di eliminarlo. Qualunque altra soluzione è un palliativo. L'unica soluzione è che è la condivisione fornita dalla scuola. Punto. Giuseppe, grazie. Guarneri, tra l'altro mi veniva in mente, a parte qualche piccolo aggiustamento e qualche cifra o qualche cosa di diverso, potremmo rimandare in onda la puntata che abbiamo fatto lo scorso anno, perché i suggerimenti che riproponiamo sono sempre gli stessi, ma qua si muove nulla. Ma perché, Guarneri? La condivisione, il comodato d'uso, anche con lei ne abbiamo parlato sicuramente in tutte le puntate che abbiamo fatto insieme. Come purtroppo, continuiamo a ripeterlo, anche nostre associazioni si sono organizzate in questo modo, con il comodato d'uso. Ci sono anche resistenze, talvolta da parte degli editori, ci sono stati ricorsi, ci sono comunque vicende normative ancora un po' da chiarire, ma sicuramente è una strada. Aggiungo che i libri si trovano anche in biblioteca, la scuola potrebbe collaborare molto di più con le biblioteche, utilizzare meno libri di testo e più libri di altro genere, cioè la didattica dovrebbe essere più variata e quindi con un minore ricorso alla esclusività del libro di testo. Questa potrebbe essere un'altra riflessione da aprire. Edoardo Scioscia, Libraccio, eccoci qua, libraccio.it questa mattina, perché dal punto di vista online avete fatto tante cose interessanti. Le chiedo però, nei vostri, come dire, canali tradizionali, nei vostri negozi, quanti libri intonsi, non utilizzati, vi riportano le famiglie e vi chiedono appunto di rivenderli in qualche modo, perché tanto li hanno comprati inutilmente ad inizio dell'anno scolastico? Ma guardi, sì, può capitare, devo dire che poi dipende anche molto dalla materia, diciamo le materie più importanti sicuramente non hanno questo tipo di riflesso. Se mi permette una considerazione, però sulla spesa per i libri di testo vorrei anche un po' fare presente, tanto non devo difendere gli editori, ma il prezzo dei libri viene fissato a gennaio dagli editori di concerto con il Ministero, col MIUR, quindi il prezzo è bloccato, quindi l'aumento riflette quasi sempre sotto l'inflazione. Dall'altro voglio dire una cosa in controtendenza, dire che la spesa di 200-250 euro, che se poi si comprano, come noi permettiamo, anche molti libri usati, diminuisce rivendendo anche quelli dell'anno prima. Io ho due figli in età scolare, posso dirle che quello che diciamo spendo per loro in cellulare o di tecnologia o solo di telefono oggi è di gran lunga superiore. Sì, ma sulla questione che attengono all'aspetto educativo, guardi, Sciascia, potremmo fare 18 trasmissioni, è chiaro che poi lì sono le famiglie che devono intervenire cercando di indirizzare bene la prole, però oggi parliamo proprio di quello che è obbligatorio, di quello che si può fare all'interno della scuola per poter alleggerire questa spesa, adesso a prescindere poi da tutto il resto. Sicuramente, voglio dire, quello che si può fare, noi ormai sono 35 anni che lo permettiamo, adesso con libraccio.it da 5 anni lo permettiamo e siamo leader in questo, è comprare anche libri usati che anche favoriti dal decreto che ha impedito i cambi di adozione se non in presenza di nuovi programmi, sostanzialmente consente un risparmio che va anche oltre il 40%. Tenga presente che noi stessi come libraccio facciamo poi anche sui libri nuovi delle promozioni che sono altrettanto valide a quelle che fanno la grande distribuzione, perché diamo un buono spesa sui libri nuovi del 15%, che sostanzialmente consente poi di acquisire o altri libri o tutto il corredo scolastico. Un'altra novità che ha introdotto il libraccio quest'anno, ma adesso la posso solo anticipare, poi la approfondiamo fra qualche minuto dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, è l'assicurazione che garantisce il rimborso anche nel caso di cambio scuola, di classe o di bocciatura. Chissà, ce ne parla Sciascia tra poco. Adesso i suggerimenti per chi è sulle strade italiane. Salva Danaio. Ring, ring, goes the bell. La scuola costa. Costano i libri, costa il materiale e non bisogna dimenticare le spese necessarie per i trasporti e per il cibo. I prezzi aumentano e gli italiani, tanto per cambiare, si scontrano con la crisi. Negli ultimi 10 anni il numero di famiglie che non sono riuscite a sostenere le spese per il vitto dei propri figli a scuola è cresciuto in modo esponenziale. A Milano, ad esempio, sono oltre 12.000 i casi di morosità relativi alle mense scolastiche per il solo anno 2010-2011. Molte le cartelle esattoriali in arrivo, per un importo totale di quasi 3 milioni di euro. Se in parte, il dubbio c'è, potrebbe trattarsi dei soliti furbi che cercano di farla franca, una tendenza di questo tipo non può che indicare anche una difficoltà crescente. Se da un lato gli evasori non mancano, insomma, dall'altro ci sarà chi è riuscito a pagare tutto, ma avrà fatto un doppio salto mortale. Dalla società milanese che fornisce i pasti e che conta un mancato introito di 5 milioni, ci tengono a dire, in ogni caso, che il pasto continuerà ad essere garantito a tutti i bambini. Nel 2010, alcune amministrazioni del Nord Italia avevano fatto discutere tutto il paese scegliendo diversamente. E quindi spero si sia rassicurato il nostro ascoltatore Alessandro, che ci ha scritto: attenzione a demonizzare presidi o responsabili di mense che, non vedendo appunto pagate le rette da parte delle famiglie, non somministrano i pasti ai bambini, agli alunni. È chiaro che questo atteggiamento, dice, urta la sensibilità dell'opinione pubblica, ma le mense scolastiche sono un servizio che va pagato. Infatti, Alessandro, l'abbiamo riconosciuto anche noi. Qua è una classica situazione in cui le ragioni ce l'hanno tutti quanti gli attori in campo, appunto protagonisti di queste vicende. Speriamo appunto che siano situazioni delle quali non dobbiamo più leggere né commentare alcunché. Allora, un paio di ascoltatori, poi completiamo la nostra chiacchierata con Edoardo Sciascia, Daniele Grassucci e Davide Guarneri. Elena da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per avermi richiamata e complimenti per la trasmissione. Grazie. Perché sono sempre argomenti veramente molto interessanti. Grazie. Io parlavo da genitore di 3 figli. Volevo dire che in Germania, per esempio, i libri di testo durano moltissimi anni e sono dati in comodato d'uso gratuito anche nei licei. Sì. E c'è quindi la possibilità, i miei figli hanno frequentato una parte anche di scuola in Germania e comunque qui in Italia hanno frequentato la scuola germanica, c'è la possibilità di passarsi i libri. I miei 3 figli hanno frequentato la stessa scuola e hanno utilizzato sempre gli stessi testi. e quindi insomma non è successo niente di tanto compromettente per nessuna scuola per aver adottato e per aver dato questa possibilità alla famiglia. Elena, la ringrazio, per cui insomma ci sembra un sogno che questa pratica possa essere adottata dalle scuole, e invece molte scuole lo fanno tranquillamente, però un po' in silenzio e in sordina. Metto insieme anche Michele da Verona, poi chiudiamo con gli ascoltatori e andiamo verso le conclusioni. Michele, buongiorno anche a lei. Eccolo qui Deborah, buongiorno. Buongiorno. Niente, io forse parlo fuori tema, però un tablet costa 150 euro nella peggiore delle ipotesi, senza andare a comprare la mela o che. Lì ti si potrebbe scambiare tutti i libri digitali che si vogliono, facendoli costare molto poco, avendo oltretutto anche molto meno peso, perché io vedo le mie figlie quando vanno a scuola sono come degli asini con le borse. Ah beh, non nell'altro senso, ecco. Come Pinocchio. No, no, fortunatamente una comincia a settembre, comincia con la prima elementare, l'altra in terza. Anche il mio nipotino. Va anche molto bene in terza liceo e sono anche molto contento, però va via con certe vagonate di libri. Che sì, esatto, come i mattoni che ha messo Alvaro Vitali all'inizio. Esatto. Allora, un bel tablet e libri digitali, cioè siamo nel 2013. I punti di vista sono i tanti. I ragazzini a 11 anni hanno già i telefoni, smartphone con il touchscreen, con la sensazione. Esatto, esatto, esatto. Sono più che capaci di utilizzare Michele, lei ha detto bene, i figli sono capaci, tutto il panorama degli insegnanti che fa un po' più fatica ad adeguarsi a queste novità, però ci arriveremo, tanto lo sviluppo è ineluttabile, non si potrà fare a meno appunto di andare su questa strada. Intanto però viviamo in questo interregno un po' complicato per tutti. Allora, da chi ripremiamo? Sì, da Sciosha, libraccio.it, ecco. Perché io ho anche promesso appunto che avremmo parlato di questa cosa interessante che fanno, insomma, non sono tutti bravi a scuola, qualcuno viene bocciato, qualcuno non si trova bene, vuole cambiare scuola, e qua ci si trova che passando da un liceo magari ad un istituto tecnico, nel giro di 3 settimane le famiglie debbano cambiare tutto il corredo appunto dei libri. Che cosa si può fare appunto per evitare che questo avvenga? Noi abbiamo escogitato un sistema già da un paio d'anni che piace molto alle famiglie e agli utenti, che è quello con un piccolissimo sovrapprezzo sulla lista, pari a 50 centesimi al libro, si acquisiscono una serie di diritti. Quello di poter cambiare sino a gennaio l'intero corredo dei libri, e viene riconosciuto il 100% della spesa del libro usato, il 50% di quella dei libri invece acquistati nuovi, no? Nel contempo si garantiscono tutti i cambi di libro di testo, perché è intervenuto un nuovo insediamento di un nuovo professore, piuttosto perché la classe è stata smembrata, perché non ci sono più i numeri per portare avanti quel corso, e tutta una serie di servizi aggiuntivi che a quel punto al genitore non costano niente, ivi compreso il fatto di poter, qualora uno compri libri a luglio per trovare più libri usati, e a quel punto il figlio per qualche motivo va all'esame di riparazione e viene bocciato, in quel caso ha diritto alla restituzione intera della somma. Quindi un modo per cautelare la spesa delle famiglie, e si inserisce anche nel nostro progetto più generale, che è quello di dare anche dei corredi, dei kit scolastici a prezzi competitivi. Abbiamo un nostro diario che non supera i 6 euro, abbiamo uno zaino nostro che non supera i 25 euro, insomma un progetto per le famiglie sempre in ambito Benissimo. Di risparmio, di recupero e di riciclo. Grazie ad Edoardo Sciosha, ci torneremo su questi argomenti sicuramente l'anno prossimo di questi tempi, per capire appunto se ancora siete andati avanti con altre iniziative. Intanto l'ultima telefonata, adesso lo prometto, è quella di Mariangela dalla provincia di Treviso, poi abbiamo ancora 3 minuti e mezzo di tempo per concludere con Grassucci e Guarneri. Mariangela, buongiorno, rapidissima, buongiorno, la ringrazio. Buongiorno. Grazie. Senta, io sono una nonna, però sono stata anche un'insegnante per tantissimi anni. E io sto seguendo adesso i miei nipoti. La cosa che constato, io ho insegnato tedesco, perciò ho frequentato la Germania. Allora, i libri dei miei nipoti sono molto belli, in Germania se li sognano così belli, però sono esagerati. Sono esagerati. Per esempio, è possibile che ogni test di matematica, di grammatica, abbia gli esercizi annessi? Certo. Diventa 1,5 kg. Certo, adesso capisco magari un bel libro di geografia che debba essere corredato a cartina. Un esercizio a parte in carta riciclata è diamine, è molto più comodo. E poi non solo, ma se i ragazzini naturalmente scrivono gli esercizi sul testo, perciò non possono neanche essere passati al tabellino. Ah, certo. Qui si tratta di civiltà, devo dire. Ecco. Poi c'è un'altra cosa, i miei nipotini, uno in una scuola parificata, uno nella scuola statale, scuola media, uno 30 libri, uno 31. Ma è una follia. Ma voi avete mai provato a leggere un libro di applicazioni tecniche? Voglio vedere se lei ce la fa capire. Guardi, Mariangela, non lo faccio da svariati anni, praticamente dalla preistoria, e non mi viene neanche voglia di rifarlo. Comunque grazie per la sua testimonianza, che ci ha riaperto anche un altro spaccato. Davide Guarneri, qua ci comincia anche ad infastidire un po' questo continuo parallelo alla Germania su tutto, ormai è diventato questo paese il nostro incubo. Detto questo, una conclusione appunto per la nostra trasmissione di oggi, grazie. Una conclusione rapidissima, l'appello alla Germania ci dice che questa crisi ci sta insegnando il valore della sobrietà. Applicarsi una sobrietà in tutto, nelle adozioni, nella scelta delle marche, impariamo in questo caso dagli spagnoli, meno attenzione magari al prodotto di prestigio, nel consumo, anche molta cancelleria viene anche buttata francamente dai nostri figli, quindi l'educazione alla sobrietà. Benissimo, ho due figli, ci scrive Carolina, ho già speso 300 euro per uno che inizia la prima e un altro la materna, a questo bisogna aggiungere, lo ricorda, spese per vestiti e scarpe eccetera, è possibile che lo Stato non preveda nessuna agevolazione per le famiglie con figli. Carolina, si iscriva sicuramente all'associazione di Davide Guarneri, sarà una voce in più per portare avanti queste battaglie. Daniele Grassucci, in 30 secondi tu una conclusione invece sul tema del comodato d'uso, le scuole che vogliono far condividere i libri appunto agli studenti? Sicuramente un'iniziativa lodevole, il problema è che è legato all'autonomia scolastica, quindi ai fondi disponibili di ciascuna scuola, e non sarebbe male se una parte di quei contributi scolastici, che in teoria ecco, dovrebbero essere volontari, in pratica sono obbligatori, fossero utilizzati proprio per aumentare i libri disponibili e quindi la possibilità per le famiglie meno abbienti di utilizzare questo servizio. Certo. Però ecco, bisogna andare nella propria scuola e documentarsi per capire com'è la situazione. Allora, a proposito poi tra l'altro dell'aspetto educativo, condivido quello che diceva Mariangela, cerchiamo di farli pasticciare con la penna il meno possibile, così magari li possono riutilizzare cugini, parenti e amici, o si possono rivendere a libraccio, ci si possono rifare tante altre cose quando il loro uso è terminato. Grazie a Daniele Grassucci di scuola.net, scuola con la K, Davide Guarneri dell'Associazione Italiana Genitori Onlus, abbiamo sentito Edoardo Sciosha del Libraccio. Grazie a tutti, domani naturalmente l'IMU, e stasera Consiglio dei Ministri convocato per le 17 per approvare appunto le nuove misure su questa imposta, e domani vi ricordo speciale di 16 pagine del Sole 24 ore e puntata di Salvadanaio. Buona giornata.